Dopo che ebbi sistemato Clara e Rosa nel mio mausoleo, mi sentii un po' più tranquillo perché sapevo che prima o poi saremmo stati riuniti lì tutti e tre, insieme ad altri esseri amati come mia madre, la nana e la stessa Ferula che spero mi abbia perdonato. Non immaginavo che sarei vissuto così a lungo e che avrebbero dovuto aspettarmi per tanto tempo. La stanza di Clara rimase chiusa a chiave. Non volevo che qualcuno entrasse affinché non spostassero nulla e non vi potessero più trovare il suo spirito presente ogni volta che lei lo desiderasse. Cominciai a soffrire di insonnia, il male di tutti i vecchi. Di notte giravo per la casa, senza riuscire a prendere sonno, trascinando le ciabatte che mi stavano larghe, avvolto nell'antica vestaglia vescovile che ancora conservo per motivi sentimentali, brontolando contro il destino come un vecchio finito. Con la luce del sole, tuttavia, recuperavo la voglia di vivere. Mi presentavo all'ora della colazione con la camicia inamidata e l'abito a lutto, sbarbato e tranquillo. Leggevo il giornale con mia nipote, aggiornavo i miei affari e la corrispondenza e poi uscivo per il resto della giornata. Avevo smesso di mangiare in casa, tranne il sabato e la domenica, perché senza la presenza catalizzatrice di Clara non c'era motivo di sopportare le zuffe con i miei figli. I miei unici amici cercavano di togliermi il lutto dall'anima, pranzavano con me, giocavamo a golf, mi sfidavano a domino. Con loro discutevo dei miei affari, parlavo di politica e talvolta della mia famiglia. Una sera in cui mi videro più su di morale, mi invitarono al Cristoforo Colombo, nella speranza che una donna compiacente mi facesse tornare il buon umore. Nessuno di noi tre aveva l'età adatta per quelle avventure, ma ci bevemmo un paio di bicchieri e partimmo. Ero stato al Cristoforo Colombo qualche anno prima, ma l'avevo quasi dimenticato. Negli ultimi tempi l'albergo aveva acquisito prestigio turistico e i provinciali arrivavano alla capitale solo per visitarlo e poi poterlo raccontare ai loro amici. Arrivammo all'antico palazzo che di fuori continuava a essere uguale da moltissimi anni. Ci ricevette un portiere che ci condusse nel salone principale, dove mi ricordavo di essere già stato all'epoca della maîtresse francese, o meglio con l'accento francese. Una ragazzina, vestita come una scolaretta, ci offrì un bicchiere di vino offerto dalla casa. Uno dei miei amici fece per stringerla alla vita, ma lei l'avvisò che faceva parte del personale di servizio e che dovevamo aspettare le professioniste. Poco dopo si aprì una tenda e apparve una visione da antica corte araba, un nero enorme, così nero da sembrare blu, con i muscoli lucidi d'olio, coperto da brache color carota, un panciotto senza maniche, turbante di lamè viola, babbucce da turco e un anello d'oro infilato nel naso. Quando sorrise, vedemmo che aveva tutti i denti di piombo. Si presentò come Mustafa e ci porse un album di fotografie affinché scegliessimo la mercanzia. Per la prima volta, dopo molto tempo, risi di buon gusto, dato che l'idea di un catalogo di prostitute mi sembrava molto divertente. Sbirciammo l'album, in cui c'erano donne grasse, magre, con i capelli lunghi, con i capelli corti, vestite da ninfe, da amazzoni, da novizie, da cortigiane, senza che mi fosse possibile sceglierne una, perché tutte avevano l'espressione pesta dei fiori di un banchetto. Le ultime tre pagine dell'album erano dedicate a ragazzi con tuniche greche, con corone di alloro, che giocavano tra false rovine greche con le chiappe rotondette e le palpebre dalle ciglia finte, ripugnanti. Io non ne avevo mai visto da vicino uno, confesso, tranne Carmelo, quello che si vestiva da giapponese al lampioncino rosso. Perciò mi stupì che uno dei miei amici, padre di famiglia e agente della borsa di commercio, scegliesse uno di quegli adolescenti culoni delle fotografie. Il ragazzo spuntò, come per arte magica, da dietro le tende, prese per mano il mio amico fra risatine e sculettate. Un mio altro amico preferì una grandissima odalisca, con cui dubito che abbia potuto combinare qualsiasi prodezza a causa della sua età avanzata e della sua fragile costituzione, ma comunque uscì con lei, anche loro ingoiati dalla tenda. Vedo che il signore fa fatica a decidersi, disse Mustafa cordialmente. Mi permetta di offrirle il meglio della casa, le presenterò Afrodite. E Afrodite entrò nel salone con tre piani di riccioli sulla testa, mal coperta da un po' di tulle drappeggiato e con grappoli d'uva finta che le ricadevano dalla spalla fino alle ginocchia. Era Transito Soto, che aveva acquisito un deciso aspetto mitologico, nonostante i grappoli pacchiani e il tulle da circo. Felice di vederla, patron, salutò. Mi portò oltre la tenda e ci ritrovammo nel piccolo cortile interno, il cuore di quella labirintica costruzione. Il Cristoforo Colombo era formato da due o tre case antiche strategicamente unite da cortili interni, corridoi e ponti fatti apposta. Transito Soto mi condusse in una stanza anodina, ma pulita, la cui unica stravaganza erano certi affreschi erotici scopiazzati da quelli di Pompei che un pittore mediocre aveva riprodotto sulle pareti, e una vasca da bagno grande, antica, un po' arrugginita con acqua corrente. Feci un fischio di ammirazione. Abbiamo fatto qualche cambiamento nelle decorazioni, disse lei. Transito si tolse i grappoli d'uva e il tulle e fu di nuovo la donna che io ricordavo, solo più appetibile e meno vulnerabile, ma con la stessa espressione ambiziosa negli occhi che mi aveva conquistato quando l'avevo conosciuta. Mi raccontò della cooperativa di prostitute, femmine e maschi, che si era rivelata formidabile. Fra tutti avevano risollevato il Cristoforo Colombo dalla rovina in cui l'aveva ridotta la falsa madama francese di un tempo e avevano lavorato per trasformarlo in un luogo mondano e in un monumento storico che girava per le labbra dei marinai dei più remoti mari. I costumi erano il maggior contributo al successo perché colpivano la fantasia erotica dei clienti, così come il catalogo, che erano riusciti e riuscite a riprodurre e a distribuire in qualche provincia per risvegliare negli uomini il desiderio di conoscere un giorno il famoso bordello. È una rottura di scatole indossare quei vestiti e questi grappoli da commedia, patron, ma agli uomini piace, se lo raccontano e questo ne attira degli altri. Ci va molto bene, è un buon affare e qui nessuno si sente sfruttato, siamo tutti soci. È l'unica casa di prostitute del paese ad avere un nero autentico fra il personale, gli altri che lei vede in giro sono tutti pitturati. Invece Mustafa, anche se lo strofina con carta vetrata, nero rimane. E poi qui è pulito. Qui si può bere l'acqua del bagno perché buttiamo lì Shiva fin dove lei nemmeno se lo immagina. E siamo tutte controllate dalla sanità, non ci sono malattie qua. Transito si tolse l'ultimo velo e la sua magnifica nudità mi confuse talmente che d'improvviso sentii una stanchezza mortale. Avevo il cuore oppresso dalla tristezza e il sesso flaccido come un fiore ammuffito e senza futuro tra le gambe. Ah, Transito, credo di essere troppo vecchio per queste cose, balbettai. Ma Transito Soto cominciò a farondeggiare il serpente tatuato intorno al suo ombelico, ipnotizzandomi col tenero contorno del suo ventre mentre mi ninnava con la sua voce di uccello rauco, parlando dei benefici della cooperativa e dei vantaggi del catalogo. Dovetti ridere e a poco sentii che il mio riso era proprio un balsamo. Col dito feci perseguire il contorno del serpente, ma mi scivolò giù a zigzag e mi stupì che quella donna, che non era nella prima né nella seconda giovinezza, avesse la pelle tanto compatta e i muscoli tanto sodi, capaci di far muovere quel rettile come se avesse vita propria. Mi chinai a baciare il tatuaggio e constatai soddisfatto che non era profumata. L'odore caldo e sicuro del suo ventre mi entrò nelle narici e mi invase completamente, risvegliandomi nel sangue un fervore che credevo raffreddato. Senza smettere di parlare, Transito aprì le gambe, separando le morbide colonne delle sue cosce con un gesto casuale, come se stesse sistemando la sua posizione. Lentamente cominciai a sentirmi eccitato finché non dimenticai il lutto e il peso degli anni e mi tornò il desiderio con la forza di altri tempi. Mi tolsi i vestiti a strappi con disperazione, notando felice la fermezza della mia virilità, proprio mentre sprofondavo nell'animale tiepido e misericordioso che mi offriva, coccolato dalla voce di uccello rauco, allacciato dalle braccia della dea, dimenandomi con la forza del bacino, sino a perdere la nozione delle cose e a esplodere nel piacere. Poi ci lavammo insieme nella vasca con acqua tiepida, finché non mi tornò l'anima in corpo e mi sentii quasi guarito. Per un attimo giocai con la fantasia intorno all'idea che Transito fosse la donna di cui avevo sempre avuto bisogno e che al suo fianco avrei potuto tornare all'epoca in cui ero capace di sollevare di peso una robusta contadina, issarla sul dorso del mio cavallo e portarla fra i cespugli contro la sua volontà. Clara, mormorai senza pensarci. E allora sentii che sulla guancia mi scorreva una lacrima, e poi un'altra e un'altra ancora, finché non fu un torrente di pianto, un tumulto di singhiozzi, un soffocamento di nostalgie e di tristezze che transito Soto riconobbe senza difficoltà perché aveva esperienza delle pene degli uomini. Mi lasciò piangere tutte le miserie e le solitudini degli ultimi anni e poi mi tolse dalla vasca con cure materne, mi asciugò, mi fece dei massaggi sino a lasciarmi morbido come un panno bagnato e mi coprì quando chiusi gli occhi nel letto. Mi baciò sulla fronte e uscì in punta di piedi. Chi sarà mai Clara? La udii mormorare mentre usciva. 11. Il risveglio. A circa 18 anni, Alba abbandonò definitivamente l'infanzia. Nel momento stesso in cui si sentì donna, andò a chiudersi nella sua antica stanza, dove c'era ancora l'affresco murale che aveva iniziato molti anni prima. Cercò nei vecchi recipienti di colori finché non trovò un po' di rosso e di bianco che erano ancora freschi. Li mescolò con cura e poi dipinse un grande cuore rosa nell'ultimo spazio libero della parete. Era innamorata. Poi gettò nell'immondizia i barattoli e i pennelli e si sedette a contemplare a lungo i disegni per riesaminare la storia delle sue pene e delle sue gioie. Si accorse che era stata felice e con un sospiro si accomiatò dall'infanzia. Quell'anno molte cose erano cambiate nella sua vita. Aveva finito la scuola e deciso di studiare filosofia per togliersene la voglia e musica per dar contro a suo nonno, che considerava l'arte come un modo di sprecare il tempo e predicava instancabilmente i vantaggi delle professioni libere o scientifiche. La preveniva anche contro l'amore e il matrimonio, con la stessa cocciutaggine con cui insisteva affinché Jaime si trovasse una fidanzata per bene e si sposasse, perché stava diventando uno scapolone. Diceva che per gli uomini era bene avere una moglie, ma che le donne come Alba non erano fatte per il matrimonio. Le prediche di suo nonno si volatilizzarono quando Alba vide per la prima volta Miguel nel corso di una memorabile sera di guazza e freddo nel caffè dell'università. Miguel era uno studente pallido, dagli occhi febbricitanti, dai pantaloni stinti e dagli stivali da minatore, all'ultimo anno di legge. Era un dirigente della sinistra, era infiammato dalla più incontrollabile passione, cercare la giustizia. Questo non gli impedì di accorgersi che Alba lo osservava. Sollevò lo sguardo e i loro occhi si incontrarono. Si guardarono abbagliati e da quel momento cercarono ogni occasione per stare insieme nei pioppetti del parco, dove passeggiavano carichi di libri o trascinando il pesante violoncello di Alba. Fin dal primo incontro lei notò che lui portava una piccola insegna sulla manica, una mano tesa col pugno chiuso. Decise di non dirgli che era nipote di Esteban Trueba e per la prima volta nella sua vita usò il cognome indicato nella sua carta d'identità, Satigny. Si era subito resa conto che era meglio non dirlo nemmeno agli altri suoi compagni. Poté invece vantarsi di essere amica di Pedro Terzo García, che era molto popolare fra gli studenti, e del poeta, sulle cui ginocchia si sedeva da bambina e che allora era ormai conosciuto in tutte le lingue e i suoi versi erano sulle labbra dei giovani e sui graffiti dei muri. Miguel parlava della rivoluzione, diceva che alla violenza del sistema bisognava opporre la violenza della rivoluzione. Alba, tuttavia, non nutriva alcun interesse per la politica e voleva solo parlare d'amore. Era stufa di sentire i discorsi di suo nonno, di assistere ai suoi litigi con lo zio Jaime, di vivere le campagne elettorali. L'unica partecipazione politica della sua vita era consistita nel recarsi con altri compagni di scuola a tirare sassi contro l'ambasciata degli Stati Uniti senza sapere bene perché, motivo per cui l'avevano sospesa da scuola per una settimana. E a suo nonno era quasi venuto un altro infarto. Ma all'università la politica era inevitabile. Come tutti i giovani che erano entrati in quell'anno, scoprì l'attrazione di una notte insonne in un caffè a parlare dei cambiamenti di cui il mondo aveva bisogno e a contagiarsi l'un l'altro con la passione delle idee. Rincasava di notte tardi, con la bocca amara e i vestiti impregnati dall'odore del tabacco puzzolente, con la testa calda di eroismi, sicura che al momento giusto avrebbe saputo dare la vita per una giusta causa. Per amore di Miguel e non per convinzione ideologica, Alba si trincerò nell'università insieme agli studenti che avevano occupato l'edificio in appoggio a uno sciopero di operai. Furono giorni campali di discorsi infiammati, di insulti gridati contro la polizia dalle finestre fino a rimanere senza voce. Fecero barricate con sacchi di terra e ciotoli che avevano divelto dal cortile principale. Murarono le porte e le finestre nell'intento di trasformare l'edificio in una fortezza. E il risultato si rivelò una prigione da cui era più difficile uscire per gli studenti che per la polizia entrare. Fu la prima volta che Alba trascorse la notte fuori casa, ninnata fra le braccia di Miguel, in mezzo a mucchi di giornali e di bottiglie di birra, nella calda promiscuità dei compagni, tutti giovani, sudati e con gli occhi arrossati per il sonno arretrato e per il fumo, un po' affamati e senza un briciolo di paura, perché la cosa sembrava loro più un gioco che una guerra. Il primo giorno lo passarono così, presi a costruire barricate, a mobilitare le loro candide difese, a dipingere manifesti, a parlare al telefono, che non ebbero tempo di preoccuparsi quando la polizia tolse l'acqua e l'elettricità. Fin dal primo momento Miguel si era trasformato nell'anima dell'occupazione, assecondato dal professore Sebastian Gomez, che nonostante le sue gambe paralizzate li accompagnò sino alla fine. Quella notte cantarono per farsi coraggio e quando furono stanchi delle arringhe, delle discussioni e delle canzoni, si sistemarono a gruppi per trascorrere la notte il meglio possibile. L'ultimo a riposare fu Miguel, il quale sembrava l'unico che sapesse che cosa fare. Si incaricò della distribuzione dell'acqua, mettendo in recipienti persino quella che si era accumulata nelle vaschette dei gabinetti. Improvvisò una cucina e tirò fuori, nessuno sa da dove, caffè istantaneo, biscotti e qualche lattina di birra. Il giorno dopo il fetore dei bagni senza acqua era terribile, ma Miguel organizzò la pulizia e ordinò che non venissero usati. Bisognava fare i propri bisogni nel cortile, in un buco scavato vicino alla statua del fondatore dell'università. Miguel divise i ragazzi in squadre e li tenne occupati tutto il giorno con tanta destrezza che nessuno notava la sua autorità. Le decisioni sembravano scaturire spontaneamente dai gruppi. È come se si dovesse restare qui per molti mesi, osservò Alba, affascinata dall'idea di vivere un assedio. Per strada, intorno all'antico edificio, si erano sistemati strategicamente i carri blindati della polizia. Cominciò una densa attesa che si sarebbe protratta per vari giorni. Verranno perseguitati gli studenti di tutto il paese, i sindacati, i collegi professionali. Può darsi che cada il governo, pensava Sebastian Gomez. Ah, non credo, replicò Miguel. Ma l'importante è istituire la protesta e non lasciare l'edificio finché non sarà firmato il foglio delle richieste dei lavoratori. Cominciò a piovere dolcemente e ben presto fu buio nell'edificio senza luce. Accesero lumi improvvisati con benzina e una miccia fumante dentro certi barattoli. Alba pensò che avessero tagliato anche il telefono, ma constatò che la linea funzionava. Miguel spiegò che la polizia aveva interesse a sapere quello che loro dicevano e li prevenne in quanto alle comunicazioni. Tuttavia Alba chiamò a casa sua per avvisare che si sarebbe fermata insieme ai suoi compagni fino alla vittoria finale o alla morte, cosa che le risuonò falsa una volta detta. Suo nonno strappò l'apparecchio dalla mano di Blanca e con l'intonazione furibonda che sua nipote conosceva bene, le disse che aveva un'ora di tempo per rincasare con una scusa ragionevole per avere trascorso tutta la notte fuori. Alba gli ribatté che non poteva uscire e se anche avesse potuto non ci pensava nemmeno. «Non hai niente a che fare lì con quei comunisti!» gridò Esteban Trueba. Ma subito raddolcì la voce e la pregò di uscire prima che entrasse la polizia, perché lui sapeva bene che il governo non avrebbe tollerato la cosa a lungo. Se non uscite con le buone, ci si metterà il gruppo mobile, vi tireranno fuori a randellate, concluse il senatore. Alba guardò da una fessura della finestra sbarrata con assi e sacchi di sabbia e vide i carri armati allineati in strada e una doppia fila di uomini sul piede di guerra con caschi, bastoni e maschere e capì che suo nonno non esagerava. Anche gli altri li avevano visti, alcuni tremavano. Qualcuno ricordò che esistevano nuove bombe peggiori di quelle lacrimogene, che provocavano una dissenteria incontrollabile, capace di dissuadere il più valoroso con la puzza e il ridicolo. Ad Alba l'idea parve terrificante. Dovette fare un grande sforzo per non piangere. Sentiva fitte nel ventre e suppose che fossero di paura. Miguel la abbracciò, ma non le servì di conforto. Tutte e due erano stanchi e cominciavano a sentirsi nelle ossa e nell'anima la nottataccia. Non credo che oseranno entrare, disse Sebastian Gomez. Il governo ha già abbastanza problemi, non se la prenderà con noi. Non sarebbe la prima volta che carica gli studenti, osservò qualcuno. L'opinione pubblica non lo permetterà, replicò Gomez. Questa è una democrazia, non è una dittatura e non lo sarà mai. Si pensa sempre che queste cose succedano altrove, disse Miguel, finché non succedono anche da noi. Il resto del pomeriggio trascorse senza incidenti e durante la notte tutti erano più tranquilli, malgrado il protratto disagio e la fame. I carri armati erano sempre fermi al loro posto. Nei lunghi corridoi e nelle aule i giovani giocavano a carte, riposavano sdraiati in terra e preparavano armi di difesa con bastoni e sassi. Su tutte le facce si notava la stanchezza. Alba sentiva sempre più forti le fitte al ventre e pensava che se le cose non si fossero risolte il giorno dopo non aveva altra soluzione che usare il buco nel cortile. In strada continuava a piovere e la vita normale della città seguitava imperturbabile. Sembrava che a nessuno importasse un altro sciopero degli studenti e la gente passava davanti ai carri armati senza fermarsi a leggere i manifesti appesi alla facciata dell'università. I vicini si abituarono in fretta alla presenza dei carabinieri armati e quando la pioggia fu cessata, i bambini uscirono a giocare a palla nello spazio vuoto che separava l'edificio dai distaccamenti di polizia. A tratti Alba aveva la sensazione di stare su una barca a vela in un mare tranquillo senza brezza, in un'eterna e silenziosa attesa immobile, scrutando l'orizzonte per ore. L'allegro cameratismo delle prime giornate si trasformò in irritazione e continue diatribe a mano che il tempo passava e il disagio aumentava. Miguel perquisì tutto l'edificio e confiscò i viveri del bar. Quando tutto sarà finito, li pagheremo al concessionario. È un lavoratore, come qualunque altro, disse. Faceva freddo. L'unico a non lamentarsi di niente, nemmeno della sete, era Sebastian Gomez. Sembrava instancabile, quanto Miguel. Nonostante avesse il doppio della sua età e un aspetto da tubercolotico, era l'unico professore che era rimasto con gli studenti quando avevano occupato l'edificio. Si diceva che la paralisi delle sue gambe fosse conseguenza di una raffica di mitraglia in Bolivia. Era l'ideologo che faceva ardere nei suoi alunni la fiamma che la maggioranza vide spegnersi quando abbandonarono l'università e si persero nel mondo, che nella prima gioventù avevano creduto di poter cambiare. Era un uomo piccolo, asciutto, dal naso aquilino e dai capelli radi, animato da un fuoco interiore che non gli concedeva tregua. Alba doveva a lui il soprannome di contessa, perché il primo giorno suo nonno aveva avuto la cattiva idea di mandarla a lezioni in automobile con l'autista e il professore l'aveva vista. Il soprannome era un'intuizione casuale perché Gomez non poteva sapere che nel caso improbabile che un giorno avesse voluto farlo, lei avrebbe potuto dissotterrare il titolo di nobiltà di Jean de Satigny, che era una delle poche cose autentiche possedute dal conte francese che le aveva dato il cognome. Alba non gli serbava rancore per il soprannome scherzoso, anzi, qualche volta aveva accarezzato l'idea di sedurre il valoroso professore, ma Sebastian Gomez aveva visto molte ragazze come Alba e sapeva distinguere quel miscuglio di compassione e di curiosità provocato dalle stampelle che sorreggevano le sue povere gambe di pezza. Così passò tutta la giornata senza che il gruppo mobile spostasse i suoi carri armati e senza che il governo cedesse di fronte alle richieste dei lavoratori. Alba cominciò a chiedersi che diavolo stesse facendo in quel posto, perché il mal di pancia stava diventando insopportabile e il bisogno di lavarsi in un bagno con acqua corrente cominciava a ossessionarla. Ogni volta che guardava verso la strada e vedeva i carabinieri armati, le si riempiva la bocca di saliva. In quei momenti si era resa conto che gli allenamenti di suo zio Nicolas non erano così validi nel momento dell'azione come nella simulazione delle sofferenze immaginarie. 2 ore dopo sentì una viscosità tra le gambe e si vide i pantaloni macchiati di rosso. La invase una sensazione di panico. In tutti quei giorni il timore che la cosa accadesse l'aveva tormentata quasi quanto la fame. La macchia sui suoi pantaloni era come una bandiera. Non fece nulla per nasconderla. Si sedette in un angolo sentendosi perduta. Quando era piccola, sua nonna le aveva insegnato che le cose proprie delle funzioni umane erano naturali e poteva parlare delle mestruazioni come della poesia, ma più tardi, a scuola, aveva imparato che tutte le secrezioni del corpo, meno le lacrime, sono indecenti. Miguel si rese conto del suo rossore e della sua ansia e andò a cercare nell'improvvisata infermeria un pacco di cotone e trovò qualche fazzoletto, ma poco dopo si accorsero che non bastava e al calar della notte Alba piangeva di umiliazione e di dolore, spaventata dalle tenaglie nelle sue viscere e da quei gorgoglii sanguinolenti che non sembravano affatto quelli degli altri mesi. Credeva che qualcosa stesse esplodendole dentro. Ana Diaz, una studentessa che come Miguel portava l'insegna del pugno teso, osservò che era una cosa di cui soffrivano le donne ricche perché le proletarie non si lagnavano neppure quando stavano partorendo. Ma vedendo che i pantaloni di Alba erano zuppi e che lei era pallida come un moribondo, andò a parlare con Sebastian Gomez. Questi si dichiarò incapace di risolvere il problema. Ecco, cosa succede quando le donne si mescolano alle faccende degli uomini? Scherzò. No. Succede quando si mescolano i borghesi alle faccende del popolo, replicò la giovane indignata. Sebastian Gomez raggiunse l'angolo dove Miguel stava sistemando Alba e le si mise a lato con difficoltà per via delle stampelle. Contessa, devi andartene a casa. Qui non dai alcun contributo, anzi sei solo un fastidio, le disse. Alba sentì un'ondata di sollievo. Era troppo spaventata e quella era un'uscita onorevole che le permetteva di tornare a casa senza che sembrasse una vigliaccata. Discusse un po' con Sebastian Gomez per salvare la faccia, ma accettò quasi subito che Miguel uscisse con una bandiera bianca per parlamentare con i carabinieri. Tutti lo osservavano dalle feritoie mentre attraversava lo spazio vuoto. I carabinieri avevano serrato le fila e gli avevano ordinato con un altoparlante di fermarsi, di posare la bandiera bianca a terra e di avanzare con le mani dietro la testa. Sembra che siamo in guerra, commentò Gomez. Poco dopo Miguel tornò e aiutò Alba a sollevarsi. La stessa giovane che prima aveva criticato le lamentele di Alba la prese per un braccio e i tre uscirono dall'edificio, scansando le barricate e i sacchi di sabbia illuminati dai potenti riflettori della polizia. Alba poteva appena camminare, si vergognava e le girava la testa. Una pattuglia le andò incontro a metà strada e Alba si trovò a pochi centimetri da una divisa verde e vide una pistola puntata all'altezza del naso. Alzò lo sguardo e si trovò di fronte un volto bruno con occhi da roditore. Seppe immediatamente chi era. Esteban Garcia. Lei è la nipote del senatore Trueba, esclamò Garcia con ironia. E così Miguel venne a sapere che lei non gli aveva detto tutta la verità. Sentendosi tradito, la consegnò nelle mani dell'altro, si voltò e tornò indietro, trascinando per terra la sua bandiera bianca, senza darle nemmeno uno sguardo di saluto, accompagnato da Ana Diaz, che era sorpresa e furiosa quanto lui. Cosa ti succede? Chiese Garcia, indicando con la sua pistola i pantaloni di Alba. Sembra un aborto. Alba alzò la testa e lo guardò negli occhi. Non sono affari suoi. Mi porti a casa! Ordinò, ricorrendo al tono autoritario che usava suo nonno con tutti quelli che non considerava della sua stessa condizione sociale. Garcia esitò. Da molto tempo non sentiva un ordine in bocca a un civile ed ebbe la tentazione di portarla dentro e di lasciarla marcire in una cella nel suo stesso sangue finché non l'avesse pregato in ginocchio. Ma nel suo mestiere aveva imparato che c'erano molti altri più potenti di lui e che non poteva concedersi il lusso di fare qualcosa impunemente. Inoltre, il ricordo di Alba con i suoi vestiti inamidati che beveva limonata sulla veranda delle Tre Marie mentre lui strascicava i piedi nudi nel cortile delle galline e ingoiava il proprio moccio, e il terrore che aveva ancora per il vecchio Trueba furono più forti del suo desiderio di umiliarla. Non poté sostenere lo sguardo della ragazza e abbassò impercettibilmente il capo. Si volse, latrò una breve frase e due carabinieri portarono a braccia Alba sino al furgone della polizia. Arrivò così a casa. Vedendola Blanca pensò che si erano avverate le previsioni del nonno e che la polizia era ricorsa ai bastoni contro gli studenti e cominciò a strillare e non smise finché Jaime non ebbe esaminato Alba e le assicurò che non era ferita e non aveva niente che non si potesse guarire con un paio di iniezioni e un po' di riposo.